signora, se non sei capace di pedalare devi stare a casa. Lascia che te lo dica uno che le sa certe cose. Ho proseguito il mio giro e non le ho più visti. Dopo 3 ore a casa mi pulsavano ancora le tempie. Ho scoperto di avere il volume delle cuffie troppo alto e i timpani facevano contatto con le tempie, appunto. La prossima volta niente cuffie. Guadagnerò anche in aerodinamica e se quei due li ritrovo sulla mia strada saranno solo problemi loro. Gaute da Suta, madamin. Sono in camin carivu. Two kids from the mean streets, the wrong side of town. They grew up way too fast with a passion that they shared for bicycle racing, a legend from our notorious past, a story from another time when the car was king. People ran for the rage and the love. Between rage and love, the distance is eternal. It's clear who the champion was. Aye, aye, aye, Gerard Engel, fly, you great champion. No one can catch you on your road. Aye, aye, aye, Gerard Engel, you're way ahead of him now. No one can see Santa anymore. Behind the curve of time, there's Santa on his bicycle. A gun is shining in his hand. Somebody hunted him, he'd make his wheels spin wildly, shoot out the lights or an innocent man. And the bankers and the cops were now running scared. Santa and the bandit was too tough. Santa was gaining way too much confidence, and the rewards for bravery are never enough. Aye, aye, aye, Giardango, fly, you great champion. No one can catch you on your road. Aye, aye, aye, Girardengo, watch out for Sante. He's not that far behind anymore. Ciao, sono Francesco, chiamo da Treviglio in provincia di Bergamo. La storia di domani è la mia e parla di un racconto tragicomico che mi è accaduto in Africa tanti anni fa.